Altri suoni, la puntata di oggi, giovedì 13 luglio 2023, va un po' in comparazione, spostandosi tra Europa e Stati Uniti per sonorità elettronica, glitch, ambient. Abbiamo parlato degli ISO 68 con queste sonorità più distese, eterogenee, se vogliamo anche misteriose. Li ho sempre paragonati, come vi avevo preannunciato per questa piccola monografia dedicata ai Pulse Programming. Arrivano da Portland negli Stati Uniti d'America, lo stato dell'Oregon. È un duo che, appunto, come già ho anticipato, fanno della sonorità glitch, della proposta elettronica, se vogliamo a volte anche pop, qualcosa di importante, perché no, anche di gustoso. Dal 2003 sono in attività, hanno portato dischi, tra l'altro con un'estetica anche dal punto di vista della confezione quanto mai affascinante, magari ve ne parlo. Hanno un'altra particolarità nella scrittura musicale che è abbinabile a quella degli ISO 68, che sono seminali per i colleghi. Anche il lavoro più bello di Pulse Programming, che andiamo ad ascoltare adesso, loro incidono per la Aesthetics, Tulsa for One Second, che per me è un disco meraviglioso. Anche questo disco, il più riconosciuto di Pulse Programming, come lo stesso Here There degli ISO 68, è stato remixato, rielaborato da importanti musicisti. Li ascolteremo entrambi, non tutti o non tutto ovviamente, però avremo qualche parte particolarmente interessante che ho selezionato da questi due lavori. Sentite già come il glitch ritmato in un tappeto sonoro prende posizione in un panorama elettronico veramente originale. Loro sono Pulse Programming dagli Stati Uniti d'America e il disco è, secondo me, bellissimo, Tulsa for One Second. Lavorano più sull'elettronica, sull'aspetto anche ritmico, tutt'altro che algido, anzi ben composto, elegante, forbito, con un dialogo musicale molto importante tra il gusto e la ricerca. Più leggibili probabilmente degli ISO 68. Entrambi sono due progetti, comunque, secondo me, che per l'idea di altri suoni sono dei fondamentali. Hanno avuto la mia stessa sensazione alcuni artisti che questo disco Tulsa for One Second hanno visto bene di remixare, rielaborare. Ne cito qualcuno, la musicista Barbara Mongerstein e anche B. Fleischman, di cui abbiamo portato dei lavori per la More Music in un'altra puntata di Altri Suoni, Sylvain Chauveau per l'ambient molto oscuro e molto particolare. Invece quello che vi propongo, e l'ho già proposto perché per me è un pezzo, ve lo lascio tutti i 7 minuti, perché per me è un capolavoro dell'elettronica contemporanea, e la prossima puntata sarà di approfondimento per City Center Office del progetto Static. Ecco l'idea di Static, del lavoro di Tulsa for One Second, che hanno visto bene di rielaborare, da cui ha tratto questo brano dal titolo Off to Do Shower Snapshots. A tra poco, buon ascolto, godetevelo perché è veramente bello. che spiega tantissime cose anche dal punto di vista dello studio fra Germania e Stati Uniti d'America nella proposta elettronica del contemporaneo. Come dalla Germania c'è questo glitch ritmato, il 4 quarti, gli Static ne danno questa interpretazione. Dagli Stati Uniti, del resto Pulse Programming sono nella produzione di Telephone Tel Aviv, di cui tanto abbiamo parlato. Vi è invece la ricerca, il discorso disteso dell'ambient, qualcosa di più armonico, se vogliamo, e meno spezzettato. Ecco, questo incontro ha dato vita a questo brano che per me è veramente una bandiera. Minimale diventa ricchissimo anche con parti di archi, orchestrale, scritto benissimo, imprevedibile e allo stesso tempo anche molto fruibile. L'aggancio per la prossima puntata, magari sarà martedì, adesso sapete che altri suoni è imprevedibile, quindi l'ho abbinato al martedì, però non è detto, ma l'aggancio è il remix degli Static, faremo la biografia, la monografia per meglio dire, dei suoni Static per City Center Office. Oggi abbiamo conosciuto il duo da Portland, Oregon, Stati Uniti d'America, Pulse Programming, in lavori originali e in lavori di remix, andando da parte a parte dell'oceano tra Germania e Stati Uniti d'America. Concludiamo con il brano originale. Vi ho detto che questa è una rielaborazione dagli Static. Questo invece, proprio da Tulsa for One Second, è il lavoro in scrittura originale dei Pulse Programming dal brano Off to the Shower Snapshots, e tra poco ritorneremo con la rubrica in mostra. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e a regola d'arte rientreremo per la rubrica del giovedì, e vi ringrazio anche per l'accettazione di questa particolare rubrica. Certo che questi suoni non è che siano così diffusi, quindi insomma, beh, ammettiamo anche una certa originalità. Ecco, questo è il brano originale su quello che abbiamo ascoltato prima.